nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 15 settembre, il sole in regione sorto alle 6.45 tramonterà alle 19.20, la luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Nella sua abbinata con il turismo, l'attività dell'alpeggio ha ripreso slancio negli ultimi anni e si rivela addirittura redditizia per molti fattori. Unica variabile indipendente è quella del meteo, che quest'anno ha condizionato l'andamento complessivo. È il tema dell'apertura della puntata di oggi, che prosegue con la prima puntata della serie che Vita nei Campi dedicherà all'universo del vino nella nostra regione, che non può prescindere da uno sguardo alla sua storia. Il Noce è all'attenzione della rubrica che si occupa delle piante che troviamo anche qui da noi, mentre a seguire prende il via lo spazio che vogliamo riservare al maiale e ai suoi prodotti, anche in questo caso con uno sguardo alla storia sociale di questo animale. Per la gastronomia spazio al mondo variegato e inaspettato degli sformati, prima di passare, come di consueto, l'andamento del mercato, le previsioni del tempo, con una breve nota di climatologia locale al proverbio friulano della settimana. Settembre, le bovine da latte che hanno passato l'estate in alpeggio sono rientrate negli allevamenti di pianura e anche quest'anno si è confermato vincente l'abbinamento tra malghe e turismo. Un primo bilancio ce lo traccia Andrea Lugo, direttore dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, che gestisce Malga Montasio. La stagione è stata una stagione un po' altalenante perché sembrava ben preparata a livello di essenze nei pascoli, però dopo abbiamo incontrato subito un mese, quello di maggio, un po' troppo caldo, con temperature troppo alte. Dopo, per fortuna, è venuto incontro un luglio un po' piovoso, per fortuna per alcuni versi, nel senso che per gli animali è stata una manna, ma non certo per le frequenze turistiche in Malga. Questo comunque ha consentito di recuperare e di riavvicinarci anche in termini quantitativi alle produzioni del 2018. Agosto è stato un mese sicuramente ottimo da entrambi i punti di vista e settembre in sostanza anche quello si è chiuso in maniera adeguata. Al di là dell'aspetto zootecnico, quello turistico, quello legato appunto alla fruizione anche da parte della gente, quali sono le tendenze? Anche quest'anno abbiamo registrato una grande affluenza di turisti, siamo un po' in calo 5-10% rispetto all'anno precedente, ma non per un disinteresse, ma perché sappiamo che la fruibilità appunto di questi territori, di queste zone, sono sempre legate anche all'andamento climatico. Il prodotto principe della Malga è il formaggio e i suoi derivati. Quali le tendenze? Noi, ma un po' tutte le malghe, cerchiamo di sfruttare al meglio questo periodo di alpeggio. Produciamo un po' di tutto, per cui yogurt, ricotte, caciotte, latteria e il Montasio DOP, la nostra unica DOP che abbiamo in regione. Possiamo anche fregiarci quest'anno di ben tre titoli conquistati in vari concorsi su prodotti appunto di malga. E per quanto riguarda l'ultimo, quello recentemente riscosso a Borso del Grappa, dove in concorrenza con una quarantina di produttori di formaggio di malga di tutta Italia ci siamo classificati appunto al primo posto. Capitolo lavoro. In molte malghe c'è difficoltà a trovare i pastori, trovare i malgari, trovare i casari. Abbiamo avuto grandissime difficoltà in tutti questi ambiti e anche in quello agrituristico. Non so dare una risposta neanch'io, non me lo spiego. È vero che è una vita quella che devi passare per 3-4 mesi in malga veramente sacrificata, perché sei lontano dagli affetti familiari, vivi per 3-4 mesi lontano da tutti i tuoi affetti, anche dalle tue comodità. Però effettivamente, se è vero che dall'altra parte tutti quanti lamentano una crisi nell'occupazione e quant'altro, magari per qualcuno può rappresentare questo periodo una valvola di salvezza in sostanza. In finale, le protagoniste di questa storia, le bovine. Quanto bene fa a una bovina andare all'alpeggio? Beh, sicuramente, consentitemi questo parallelismo, anche se un po' banale, diciamo, ma è come noi quando dopo periodi stressanti di lavoro tendiamo con molta ansia a queste benedette ferie. Per loro è più o meno la stessa cosa, nel senso che andare in malga è effettivamente frequentare un ambiente innanzitutto, un contesto diverso da quello che le vedono durante tutto il resto dell'anno confinate magari nel proprio allevamento, nella propria stalla, e quindi c'è ovviamente un periodo di adattamento dei primi giorni che magari crea qualche difficoltà a qualche bovina, ma dopo le si vede proprio serene, tranquille e beate. Questo poi, soprattutto per quanto riguarda le manze che diventeranno le future vacche, sarebbe una pratica consigliata anche perché creano più robustezza, più forza nell'animale e quindi ritornano poi in allevamento dei capi anche più rustici e più abituati in sostanza a certi stress, chiamiamoli. Parlare dell'universo ovino anche nella nostra regione non può prescindere dalla sua nobile storia, una storia che arriva da lontano, come in questa rubrica inizia a raccontarci il professor Roberto Zironi, ordinario di enologia all'Università di Udine, che inizia appunto da lontano. Le prime notazioni storiche, diciamo, della coltivazione della vite sono sicuramente risalenti a diverse migliaia di anni prima di Cristo. E dobbiamo fare riferimento anche a quella che è esattamente la vite che viene coltivata, si trova invece presente come selvatica nei boschi, diciamo, dei territori euroasiatici. La vite, diciamo, coltivata e che in Europa può dare il vino è la vitis vinifera. Dalla vitis vinifera si distinguono due sottospecie, quindi una vite silvestris, che è presente, diciamo, spontanea, e una vite sativa, che invece possiamo definire addomesticata, cioè quella che poi viene utilizzata e viene diffusa negli antichi territori proprio per la coltivazione e la produzione del vino. La cosa interessante sono le prime notazioni, diciamo, di tipo storico, che fanno riferimento proprio alla coltivazione e alla produzione del vino. Diciamo che sia il poema epico in cui vengono descritte dai Sumeri le imprese di Gilgamesh che la Bibbia fa riferimento alla coltivazione della vite dopo il diluvio universale. La prima operazione che fa Noè dopo il diluvio universale, una volta che, diciamo, l'ha scampata, è quella probabilmente di piantare la vite e, una volta che la vite ha dato i suoi frutti, di farle fermentare e di ubriacarsi. E pare che Noè non disdegnasse. Esatto, non disdegnasse questa operazione, anzi una delle prime occupazioni appena scampato pericolo è quello appunto di piantare la vite. L'altro aspetto molto interessante che ci introduce a degli aspetti che poi andremo a sviluppare nei prossimi appuntamenti è quando nell'Odissea, quando Ulisse ritorna praticamente dopo la sua viaggio di 10 anni nel Mediterraneo e si deve far riconoscere dal padre Laerte, che cosa descrive? Descrive il frutteto che il padre gli aveva praticamente regalato quando si era sposato e anche il vigneto composto da una serie diversa di uve che tutte insieme davano un vino di qualità superiore. Quindi introduce già il discorso dell'uvaggio, il discorso, diciamo, della mescolanza di diverse origini per dare un equilibrio che poi andiamo a trovare nel vino. Come arriva la vite in Italia? Arriva fondamentalmente su due fronti, dai greci che quindi nella Magna Grecia, nel sud dell'Italia, diffondono la vite secondo un sistema ad alberello, quindi a vite bassa, e dagli Etruschi, che circa nel 1000 avanti Cristo, ugualmente coltivano la vite, viti che vengono portate nel nord Italia dai Fenici, e quindi con un sistema invece più espanso, un sistema più alto, la cosiddetta alberata. Il noce è una delle piante considerate nobili non solo per i suoi frutti e il suo legno pregiato, ma anche per le tante caratteristiche che porta con sé e che oggi ci illustra Antonino Danelutto. È questo il tempo della vendemmia delle noci. Senza faticare tanto, aspettiamo che cadano a terra e, se saremo più pronti dei ghiri o degli scoiattoli, riusciremo a farne una discreta provvista. Le noci costituiscono un importante complemento alimentare in quanto all'interno del nocciolo legnoso è contenuto il seme, detto gheriglio, ricco di sostanze benefiche. Fra le tante ricordiamo la vitamina E e alcune vitamine del gruppo B, parecchi sali minerali nonché acidi grassi insaturi come omega 3 e omega 6, assai importanti nella prevenzione di malattie cardiovascolari e degenerative. Il noce, nome scientifico Juglans regia, in friulano Noiar, Cocolar, è un albero alto anche oltre 20 metri, monoico, in quanto sulla stessa pianta i fiori maschili sono distinti da quelli femminili. Solitamente è coltivato, ma talvolta cresce spontaneo. Le foglie sono fragranti e impari pennate, i fiori si formano in aprile e maggio, sono verdastri e poco appariscenti. I maschili sono riuniti in penduliamenti sui rami dell'anno precedente, i femminili, molto più brevi, all'apice del nuovo ramo. Il frutto è una drupa ovoidale, avvolta dal mallo, e il guscio protegge il griglio. Nella medicina popolare si usano le foglie essiccate, raccolte da maggio ad agosto. Sono astringenti, amarotoniche, ipoglicemizzanti e per uso esterno risultano utili nell'eccessiva sudorazione di mani e piedi. Fresche, poste sul seno, riducono notevolmente la secrezione lattea. Il suo più importante principio attivo è lo iuglone, sospettato di essere mutageno. È presente soprattutto nelle foglie giovani e nel mallo, le cui preparazioni richiedono molta cautela. Con l'essiccazione, lo iuglone subisce alterazioni e viene meno la sua attività farmacologica. Se si vuole fare il noto liquore digestivo nocino, è bene lasciare all'aria per almeno 24 ore le noci immature. L'annerimento del mallo è il risultato dell'azione enzimatica sui composti iuglonici, resi così praticamente inattivi. L'olio di mallo di noce, mescolato in piccole quantità con l'olio di mandorle dolci, è un buon abbronzante, ma non agisce da filtro solare, per cui deve essere usato con prudenza, specialmente dalle persone di pelle chiara. Le foglie fresche, strofinate sulle parti scoperte del corpo, respingono zanzare e insetti in genere. Appese nelle stanze, tengono lontane le mosche. Secche e frantumate sono utili nelle cucce contro le pulci dei cani. Secondo la teoria dei segni formulata da Paracelso nel 500, la noce cura i disturbi del cervello in quanto le due metà del griglio sono paragonate ai due emisferi cerebrali. Si dice che la notte di San Giovanni, il 24 giugno, sotto l'ampia chioma del noce si radunino le streghe per il sabba. Qui banchettano, cantano, ballano e alla fine ciascuna prende una diversa direzione con lo scopo di compiere malefici e seminare terrore fra la gente. Oggi, con la prima puntata della rubrica dedicata al mondo del maiale nella nostra regione, Adriano Del Fabbro ci fa un po' di storia che già dall'inizio si rivela molto interessante. Il maiale, nelle sue varie forme, è un gradito compagno degli abitanti di questa regione da moltissimi anni. Infatti i primi resti fossili di, diciamo, cinghiale addomesticato sono stati rinvenuti in Friuli a Biarzo, che è una frazione di San Pietro a Natisone. Dopo l'analisi è stato possibile ipotizzare, ovviamente dagli studiosi, una loro datazione vicina al 10.000 avanti Cristo, che quindi risulta non solo tra le datazioni più antiche del Friuli, ma d'Europa addirittura. Successivamente quelli rinvenuti a Piancada di Palazzolo dello Stella sono datati 6500 avanti Cristo. Nel castelliere di Gradisca di Spilimbergo sono stati trovati i resti di tre maiali del 2000 avanti Cristo circa. Mentre una delle prime testimonianze scritte sull'allevamento dei suini è datata 1360 dopo Cristo in questo caso e arriva da Flumignano di Talmassons, dove c'è una citazione di un documento scritto dove si parla di un maiale di pelo colore rossastro, quindi già vediamo che c'è negli anni una trasformazione di questo animale che diventa forse sempre più simile rispetto all'attuale. Questo animale monogastrico, definito opportunista, forse decise di stabilirsi in prossimità degli insediamenti umani dove disponeva di resti abbondanti e della protezione dai predatori. Come è noto, insomma, il maiale non ha tante armi per difendersi. Il maiale quindi è un animale tipico delle società agricole da villaggio per la sua indole pigra e per la tendenza a ingrassare e ricercato per la carne e il concime. Indubbiamente il sodalizio fra uomini e suini dopo i primi contatti fu subito un successo. I suini sono animali straordinariamente prolifici, crescono rapidamente di peso e realizzano il massimo del rapporto fra investimento nell'allevamento e resa, ma soprattutto hanno un'alimentazione frugale molto variata e nonostante siano una formidabile fabbrica di proteine non tolgono nulla, alcun tipo di risorsa importante per l'uomo e anche per gli altri animali. Se allevato allo stato brado, infatti, il maiale sfrutta prodotti di aree non agricole come i boschi e non interferisce con le aree destinate agli animali più utilizzati dall'uomo, le capre, le pecore, i bovini, i cavalli. Nelle porcilaie tradizionali al maiale vengono o venivano somministrati in gran parte residui alimentari e agricoli, ricordiamo sicuramente il siero di latte, le patate di scarto, le rape, le zucche di terza scelta, i cruscami. Diceva Pacifico Vallussi, il giornalista di Talmassons, ottocentesco, Essi si possono ottenere anche nelle case non campestri e sino nelle città, approfittando di tutti gli avanzi della cucina per mantenerli. Tant'è vero che anticamente i grossi produttori istituzionali di rifiuti utilizzavano i maiali come neoturbini, parlo dei conventi, degli ospizi, degli ospedali. Anche le città, prima di dotarsi di servizi di nettezza urbana, usavano branchi appositi di suini. Ma già nel 1378, ad esempio, lo statuto del comune di Cividale ordinava che nel mese di giugno, luglio, agosto e settembre nessuno deve tenere i maiali nei borghi, nelle case, sia maschi che femmine, non devono vagare, altrimenti verrebbero uccisi. E lo stesso vale più avanti negli statuti comunali di Venzone, dove nel 1568 anche questo statuto proibiva di tenere i maiali in città, ma era probabilmente erano ordinanze poco rispettate, visto che ancora a fine del 1700 i governanti veneti del Friuli dovevano continuamente emanare delle norme per evitare questo pascolamento di maiali nelle città. Lo definivano in questo modo: che questa sua presenza è incomoda, indecente e spesso pericolosa, e fu sempre riconosciuta la libertà di lasciar vagare gli animali suini non solo nelle strade e sotto i portici delle situazioni più cospicue e frequentate di questa città, ma fino nelle piazze, con danno e disturbo dei trafficanti, dei negozianti. Per la rubrica della gastronomia, oggi Roberto Zottar ci introduce nel variegato e inaspettato mondo degli sformati. Il dominio asburgico della Venezia Giulia ci ha lasciato alcuni piatti raffinati e ricercati della cucina borghese dell'Ottocento. Tra questi alcuni dolci che definirei umidi, che vanno sotto il nome o di coq o di soffiati, cioè soufflé o auflauf, o di budini, che forse sono ancora attuali nella cucina inglese con i pudding. A proposito di coq, Caterina Prato, nel suo manuale di cucina per principianti e cuoche già pratiche del 1892, scriveva: «Sotto il nome di coq si comprendono le paste leggere, leggermente zuccherate, che si cuociono od al forno o con la brace sopra e sotto, come pure a bagnomaria a vapore. Si versano in forma e, da ammanite che siano, si riversano dalle medesime su terrine, che si ungono internamente con burro e si cospargono di zucchero. Riversate, si contornano con una salsa dolce. Il coq è un parente stretto del budino, le cui componenti sono spesso costituite da biscotti, riso, semolino, ma anche mandorle, frutta di stagione o quanto di dolce possa essere cotto, poiché la feconda e inesauribile fantasia delle cuoche di fine Ottocento sembrava non conoscere limiti. Il coq può essere cotto come un budino a bagnomaria, in uno stampo di metallo con coperchio o in una teglia, e va servito in genere tiepido. Questa sorta di sformati dolci erano in gran voga, tanto che la Prato ne riporta ben 22 versioni dolci diverse, iniziando con un curioso coq di tagliatelle, dove in una torritiera intonacata da pasta frolla vengono messe delle tagliatelle fredde, cotte in latte, zucchero e vaniglia, amalgamate con rossi d'uova, zucchero e bianchi a neve, e il tutto cotto al forno. Nei ricettari locali si trovano coq di arance, di ciliegie, di crema, di limone, di pane, di patate, di riso, all'aroma di cioccolata, ma anche coq di frittate e di ricotta, solo per citare le versioni più comune. Il più classico è il coq de gries o gries coq, una sorta di budino a base di semolino, impreziosito con uvetta e a volte pinoli o frutta secca, che si presenta simile a un soufflé perché ha al suo interno gli albumi montati a neve, a differenza dei classici sformati budini e flan. È un dessert diffuso a Trieste, Gorizia, nella Slovenia e in Istria. Per realizzarlo versate a pioggia 250 g di semolino in un litro di latte bollente, mescolate e cuocete come una polentina. Montate un etto di burro con un etto di zucchero e un pizzico di sale, aggiungete 4 tuorli e infine il semolino freddo. Aggiungete 50 g di sultanina rinvenuta in acqua tiepida e, volendo, mezzetto di pinoli. Amalgamate delicatamente 4 albumi montati a neve. Cuocete a 170 gradi per un'ora in una teglia imburrata. Servite tiepido, accompagnato con marmellate o con una salsa di lamponi o un compote, la classica macedonia di frutta cotta. Buon appetito! E ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stazionario venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,80 e 16 euro al quintale, va esclusa. L'orzo, peso specifico 60-63, si quota tra 15,30-15,80, il frumento tra 16,80-17,10. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 80 centesimi, il frumento di 1,90 euro il quintale. Cenni di stabilità nel mercato dei bovini da macello, con le vacche fine carriera, le prime qualità, pagate a peso morto tra 2,45 e 2,95 euro il chilo IVA esclusa, e quelle di seconda tra 1,80 e 2,40. Mercato fiacco anche nel settore dei vitelli da ristallo, con i blubelga maschi quotati tra 6,40 e 6,80 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,60 e 5 euro, i frisoni tra 1,60 e 2 euro e i bruni tra 1,70 e 1,90. Toni con tendenze a ribasso nel comparto suinicolo, con il valore della tonzoli di 30 kg franco partenza fissato a 2,63 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,48. Infine scambi con sostanziali variazioni nel settore degli avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 1,17 e 1,19 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,59 e 1,61, le faraone tra 1,95 e 1,99, le anatre tra 2,20 e 2,24, i conigli oltre 2 kg e mezzo quotati dal CUN di Verona tra 1,99 e 2,05, mentre il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 13 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Settembre, come è noto, è il primo giorno dell'autunno meteorologico, che anticipa di 20 giorni quello astronomico. Ebbene, di autunno non c'è stata traccia nel primo giorno del mese quest'anno. Sono state registrate infatti temperature massime tra 33 e ben 34 gradi in pianura. E in molte località delle province di Udine e Pordenone si è alla pari con i record storici di settembre 2016. Sulla costa e bassa pianura si rimane tra i 30 e i 33 gradi, un po' sotto, quindi grazie alla brezza pomeridiana dal mare. Il sole e il caldo dominano, ma nel pomeriggio si hanno anche rovesci e temporali locali sui monti isolati in pianura. Il mare stabilisce un record autunnale con 26,4 gradi. In precedenza non si era mai andati a settembre oltre 26,1. Dopo il giorno 2, un fronte atlantico sulle Alpi fa aumentare l'instabilità con temporale sui monti, specie in Canal del Ferro, isolati anche sul confine con la Slovenia fino a Trieste. Dalla notte tra il 2 e il 3 entra bora sostenuta sulla costa con raffiche fino a 100 km orari a Trieste. Il mare si raffredda fino a 24 gradi. La bora si attenua temporaneamente poi il 5, permettendo l'aumento dell'escursione termica, con minimi a 12 gradi e massimi oltre 30 gradi in pianura. Da segnalare il fine settimana scorso, tra sabato 7 e lunedì 9, con un intenso fronte in azione, capace di produrre alternanza di piogge temporali stazionari, specie tra la Tisana e Udine domenica, e linee temporalesche con venti forti, specie verso la costa. Nel corso di quest'ultima settimana prevale invece un anticiclone con tempo stabile e soleggiato e temperature nuovamente estive, massime anche a 30 gradi dopo l'11 in pianura, ancora una volta ben sopra la media. Da domani questo anticiclone tenderà a ritirarsi verso sud, lasciando il posto ad aria più umida, che specialmente martedì potrà portare un modesto fronte sulla regione e associate veloci e deboli piogge o rovesci fino a mercoledì mattina. Le temperature in costante calo subiranno un'ulteriore flessione, più evidente mercoledì, quando le massime non supereranno i 24-25 gradi e le minime scenderanno poco sopra i 10 in pianura, mentre sulla costa soffierà bora moderata. Successivamente e verso il fine settimana si riaffermerà l'alta pressione, il vento si attenuerà e le temperature rimarranno stazionarie su valori in linea con la media del periodo. Per aggiornamenti invitiamo come di consueto gli ascoltatori a seguire gli appuntamenti quotidiani di Osmer ARPA sul web, sulla Rai, radio e televisione e sui social network. Alla prossima! Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. San Matie la Uitie. S'invie, ovvero il giorno di San Matteo, il 24 settembre, la pispola inizia a migrare. Vuol dire che stanno arrivando i primi freddi. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.